Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Ci sono fatti storici di per sé appassionanti perché sono avvolti nel mistero, perché qua e là compaiono parole come complotto. Questi fatti naturalmente sono, come dire, un'amica eccezionale per gli scrittori, perché quando decidono poi di scrivere un romanzo possono usare appunto la fantasia per dare spiegazioni plausibili, per coprire dei buchi, per arrivare laddove la cronaca giudiziaria, per esempio, non è riuscita ad arrivare. È quello che accade, per esempio, con l'ultimo romanzo di Bruno Arpaia, Il fantasma dei fatti, pubblicato da Guanda. Si prende spunto da alcune vicende reali degli anni 60. La morte di Enrico Mattei, che all'epoca era presidente dell'ENI, nel tristemente noto incidente aereo o attentato. La morte sospetta di un personaggio meno noto, Mario Ciu, che all'epoca era ingegnere elettronico all'Olivetti. E poi due casi giudiziari, ossia le accuse, le condanne di Felice Ippolito, che all'epoca era direttore del CNEN, ossia il Comitato per l'Energia Nucleare, e Domenico Marotta, che era un chimico direttore dell'Istituto Superiore di Sanità. Questi fatti reali vengono intrecciati con diversi elementi di fantasia, appunto da Bruno Arpaia in questo romanzo Il fantasma dei fatti. Bruno, innanzitutto tu hai deciso di raccontare questo romanzo, di scrivere questo romanzo come una sorta di autofiction, perché ci sei anche tu come personaggio e racconti tutti gli anni in cui appunto hai fatto le ricerche per poi portare avanti questo romanzo. Perché questa scelta dell'autofiction? Perché da quando il mio amico Pietro Greco, uno dei più bravi giornalisti scientifici italiani, mi instillò il dubbio che dietro questi quattro eventi che tu hai raccontato, che furono una svolta nella storia d'Italia, anche se lì per lì nessuno se ne rese conto, perché da quel momento cominciammo a decidere di fare uno sviluppo senza conoscenza, cioè senza investimenti in altre tecnologie, ricerca, informazione, in cultura, arrivando poi al declino attuale, mi instillò il dubbio, dicevo, che dietro questi eventi così vicini nel tempo ci potesse essere una longa manus esterna, un complotto. Quel dubbio è diventato un'ossessione e in 11 anni di ricerche, spesso faticose, con molti stop and go, disillusioni, scoraggiamenti, sono poi arrivato a riuscire a scriverlo e ho voluto raccontare questa mia avventura in qualche modo, perché nel corso di questi 11 anni ho cambiato praticamente addirittura l'idea che era alla base del libro e quindi ho voluto raccontare, più che di autofiction, si tratta di entrare dietro le quinte di un romanzo e raccontare come un romanzo è sempre e deve sempre essere un'avventura della conoscenza. Lo è per lo scrittore, che in questo caso addirittura cambiava addirittura l'ipotesi da cui era partito, e deve essere così anche per il lettore. Un romanzo non ci può lasciare uguali a quando abbiamo aperto la prima pagina. Per me questo lo è stato, questi 11 anni di ricerca e di scrittura sono stati veramente un'avventura della conoscenza, ho imparato un sacco di cose e, come dicevo, ho cambiato quasi radicalmente idea e volevo che, insomma, questo lavoro e questa idea che un romanzo fosse conoscenza passasse al lettore. Ecco, sicuramente fra le vicende da cui tu trai spunto, quella più nota è quella di Enrico Mattei, all'epoca appunto a capo dell'ENI, che si era battuto per l'indipendenza e l'autonomia energetica dell'Italia. Una vicenda meno nota invece è quella di Mario Ciu, l'abbiamo detto, un ingegnere dell'Olivetti, e in quell'epoca l'Olivetti era veramente all'avanguardia nell'informatica, cioè riusciva a fare una reale concorrenza agli Stati Uniti. Ebbene, Mario Ciu era una delle punte di diamante dell'Olivetti, aveva proprio creato dei calcolatori elettronici, come si diceva all'epoca. Anche Mario Ciu muore in un incidente stradale che desta qualche sospetto. Sì, l'importanza di Mario Ciu è enorme, perché aveva, sul suggerimento di Adriano Olivetti, aveva creato il laboratorio elettronico Olivetti, che aveva raggiunto praticamente e superato le competenze tecnologiche dell'IBM, si apprestava a farle concorrenza. Poi invece con la morte di Mario Chu in questo incidente, il laboratorio elettronico viene chiuso. Valletta della Fiat dice che il laboratorio elettronico è, diciamo, il lavoro in campo elettronico di Olivetti è un neo da estirpare, e quindi viene venduto, chiuso, e le competenze vendute agli Stati Uniti. E quindi perdiamo anche, in un momento in cui i calcolatori elettronici diventano sempre più chiaramente un elemento strategico, no? Perché fanno andare l'uomo sulla Luna, perché questo lo sappiamo oggi molto di più, l'Olivetti era da sola, non aveva nessun aiuto statale, e questa morte di Mario Chu, seguita a breve termine a quella di Adriano Olivetti su un treno che lo portava in Svizzera, chiude per l'Italia qualunque possibilità di eccellenza anche in un settore strategico come l'informatica. Ma succede lo stesso con Felice Ippolito, che era il direttore del CNEN, che si batteva per un'indipendenza italiana nella filiera del nucleare, e per Domenico Marotta, che era il direttore dell'Istituto Superiore di Sanità, che pochissimi lo sanno, ma all'epoca in Italia era all'avanguardia nel mondo, veniva gente a studiare, a lavorare in Italia invece che il contrario, e lavorando in Italia vincevano dei Nobel. E anche lì, con le accuse false montate contro Ippolito e contro Marotta, anche quei settori vengono chiusi. Ed era questo, siccome poi chi materialmente approfitta più di questo relegare l'Italia in secondo piano sulla linea dell'eccellenza tecnologica sono gli Stati Uniti, da qui nasceva l'ipotesi di questo complotto, per il quale appunto io poi ho individuato una figura su cui poi è incentrato molto il romanzo, che è quella di Thomas Karamessinis, che era il capo della stazione della CIA a Roma in quegli anni, negli anni in cui avvengono questi quattro, chiamiamoli, incidenti, e che poi diventerà il capo delle operazioni coperte della CIA per tutto il mondo, e avrà le mani in pasta negli eventi successivi all'assassinio di Kennedy, nella cattura di Che Guevara, nel golpe in Cile, nel Watergate, che quindi all'inizio sembrava il cattivo per eccellenza, no? dei film e dei romanzi, e poi pian piano, come dicevo prima, in 11 anni di ricerca la mia visione è leggermente cambiata. Ecco, Thomas Karamessinis è una persona esistita realmente, appunto era sicuramente uno dei funzionari chiave della CIA, aveva operato a Roma e in Italia, però tu in una postfazione del romanzo precisi che molte delle cose che riguardano il personaggio Karamessinis di cui tu hai parlato sono, diciamo, frutto della fantasia, e poi rimani con un sospeso, forse. Perché hai voluto fare questa, diciamo, ecco, postfazione? Perché volevo comunque che al lettore fosse chiaro che partivamo da una base di fatti accertati. Karamessinis era un personaggio sfuggentissimo, era un professionista, per cui penso che anche quando andava a fare la spesa al supermercato, dopo che l'aveva fatta, ingoiava la lista della spesa per non lasciare tracce. Per cui su di lui c'era veramente pochissimo, e quindi, diciamo, su come lui realmente fosse, io non ho potuto fare altro che partire dai pochi fatti che sapevo e immaginare come sarebbe stato, no? Come era in realtà. Questo significa, appunto, perché il titolo del libro è anche questo, cioè ci sono i fatti e poi ci sono i fantasmi dei fatti, come diceva Sciascia, che sono il vero terreno, l'ambito, il vero ambito della letteratura, cioè sono quelle cose in cui l'immaginazione arriva a illuminare o cerca di illuminare quei lati oscuri della storia. Nessuno avrebbe mai avuto le prove, la pistola fumante del complotto contro l'Italia, però forse un romanzo avrebbe potuto illuminarle un po', avrebbe aiutato un po' a chiarirci le idee. Però ho cercato anche, appunto, di tenere da una parte chiari per il lettore quali fossero i fatti e quali la mia immaginazione, anche se non sempre è possibile, c'è un gioco anche in questo con il lettore. lettore, perché anche nella vita reale spesso noi facciamo molta fatica a separare i fatti dai fantasmi, dai fatti, da quello che noi immaginiamo sui fatti. I fatti puri e semplici non esistono, esiste sempre anche la loro interpretazione, ed è per questo che poi Calamessinis, per riassumerla come ho scritto nel libro con una espressione secondo me potentissima di Arturo Pérez Reverte, era un figlio di puttana, però era un figlio di puttana che giocava secondo certe regole. Ecco, tra l'altro il romanzo si apre proprio con Calamessinis, diciamo all'epilogo, mettiamola così, della vicenda. Tu come hai fatto un po' a immaginare e a supporre i pensieri, le cose che magari sono accadute in un altro modo, insomma come sei riuscito a realizzare la trama e a mettere insieme, a collegare tutti questi fatti? Ed è stato molto difficile, perché appunto poi ci ho messo 11 anni per riuscire a capire come organizzare un romanzo che aveva veramente una documentazione. Io di solito sono abituato a documentarmi molto, ma stavolta veramente ho esagerato, mettere tutti insieme tutte quelle storie e a trovare soprattutto l'architettura, no? L'architettura poi alla fine è nata da una parte con quello che dicevo prima, cioè la volontà di raccontare l'avventura della conoscenza mia personale riguardo a questo romanzo, e dall'altra parte immaginare l'ultimo giorno di vita di Calamessinis, perché Calamessinis morì molto giovane, a 61 anni, solo in una casa di vacanze che aveva in Canada, pochi giorni prima che doveva andare a testimoniare a una commissione della Camera dei rappresentanti statunitense che indagava sulle morti di Kennedy e di Martin Luther King. Ho immaginato una visita, no, nella sua casa di vacanze, dove era sola perché la moglie era già tornata a Washington, di due agenti della CIA, in cui in quel giorno Calamessinis racconta la sua verità sulla cattura di Che Guevara, sul golpe in Cile di cui lui era il capo della task force, sul Watergate e sulle vicende italiane di quegli anni, gli anni dell'apertura al centro-sinistra, in cui la confusione era massima, perché alcuni settori dell'amministrazione erano fermamente contrari a far entrare i socialisti nel governo italiano, anzi qualcuno diceva che se fossero entrati bisognava invadere l'Italia, ed altri, come il presidente Kennedy, contro il suo stesso segretario di Stato, contro l'ambasciata a Roma, erano favorevoli. Insomma, era un momento della storia fondamentale, molto confuso, e Calamessinis era al centro di queste trame. Ecco, questo tuo romanzo ci permette anche di guardare un pezzo della storia italiana recente, abbiamo già detto all'inizio di questa intervista, carica di misteri. Vorrei tornare un attimo sul personaggio di Mario Ciu, appunto questo ingegnere elettronico dell'Olivetti, morto in circostanze un po' misteriose. Ecco, lui appunto era uomo di punta dell'Olivetti, era un po', rappresentava la via italiana all'informatica, per dirla in maniera semplice. Secondo te che cosa mancò all'Italia per fare appunto quel salto? Tu fai intravedere anche il fatto che non ci fu l'appoggio politico, cioè la politica non comprese per esempio l'importanza di una via italiana all'informatica, come forse non la comprese o non volle comprenderla per quanto riguardava la politica energetica. Il problema è esattamente quello, è che secondo me per creare questa situazione e relegare l'Italia in un ruolo di secondo piano, purtroppo bastarono, no, le meschinità, l'ignoranza della classe dirigente italiana. Nessuno, no, lo dicevo prima, mentre gli Stati Uniti, l'Inghilterra, la Francia capivano, no, l'importanza strategica dell'informatica e davano grandi aiuti di Stato alle loro aziende, Olivetti doveva addirittura regalare i propri calcolatori elettronici ai ministeri, li regalava per far vedere quanto erano importanti e che potenzialità avevano. Nessuno lo appoggiava, Olivetti era un isolato, no? E così accadeva anche con Mattei, con Ippolito, e poi soprattutto ci furono gli interessi privati sovrapposti a quelli pubblici, a quelli nazionali. pensate soltanto al ruolo che ebbero tutte le industrie monopolistiche dell'energia, dell'energia elettrica, che si opponevano alla nazionalizzazione dell'energia elettrica, si opponevano a Mattei, perché Mattei era l'azienda di Stato che con tutti i suoi difetti, ma comunque dava all'Italia un ruolo enorme anche politico sullo scacchiere internazionale. Secondo me era questo che poi interessava molto Kennedy, e per cui poi arrivo a una conclusione forse immaginaria, ma insomma basata su qualche dato di fatto, che gli Stati Uniti non avevano alcun interesse a eliminare dalla scena Mattei, mentre invece lo avevano sicuramente gli inglesi, perché Mattei insisteva su zone di competenza di delle due sorelle inglesi, no? La British Petroleum e la Shell, la Dutch Shell, e forze politiche, forze diciamo imprenditoriali e politiche interne italiane, magari con l'aiutino della mafia o di servizi segreti vari deviati. Grazie a Bruno Arpai, autore di Il fantasma dei fatti, pubblicato da Guanda. Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri. Aiutiamo. Il Sole 24 Ore, insieme a Radio 24 e Radio Cor, sostiene le strutture ospedaliere sul territorio impegnate nell'affrontare l'emergenza coronavirus. L'ospedale di Brescia ha bisogno di te e per noi è la notizia più importante di oggi. L'ASST Spedali Civili di Brescia, con i suoi medici e tutto il suo personale, sta lavorando senza sosta per affrontare il Covid-19. Aiuta anche tu con una donazione straordinaria per affrontare tempestivamente questa emergenza. Per tutte le info, s24ore.it/aiutiamo. Il cacciatore di libri. Si intitola Fronte di scavo, il nuovo romanzo di Sara Luffredi pubblicato da Einaudi. Questo è un romanzo che racconta anche della costruzione del tunnel del Monte Bianco, quindi del tunnel stradale che collega Courmayeur e Chamonix. Siamo dunque nel 1961, il romanzo si svolge fra il 61 e il 62. Il protagonista è un uomo, Ettore, che fa l'ingegnere e arriva appunto al fronte di scavo, cioè nella parte dove si sta appunto scavando dal fronte italiano per seguire i lavori. Per Ettore questa esperienza è un'esperienza fondamentale dal punto di vista lavorativo. Lui dice: le gallerie erano il mio pane quotidiano, ma insomma questa era sicuramente un'opera grandiosa per l'epoca, un'opera epica, anche in parte forse visionaria, e questa sarà anche l'occasione per lui per ritrovare forse un nuovo equilibrio nella sua vita attraverso il rapporto con la montagna e attraverso alcuni eventi che accadranno appunto in questo famoso cantiere. Allora Sara, partiamo proprio dall'ambientazione. Tu hai deciso di raccontare una storia che ha a che vedere con la costruzione del tunnel del Monte Bianco. Come mai hai preso questo episodio, diciamo questo evento storico, per poi diciamo incastonare una storia di fantasia? L'idea iniziale è partita dal fatto che quelli sono i miei posti, perché io da ragazzina vivevo in Valle d'Aosta con la mia famiglia, e quindi sai, sono i luoghi che mi hanno visto bambina, che mi hanno visto crescere, e quella montagna per me è casa, è un luogo insomma magico. Il tunnel, anche se opera dell'uomo, entrava in questo scenario di me bambina, anche perché mio padre ci ha lavorato, diciamo, quando era già in essere, quando era già costruito negli anni 70. E sai, lui era alpinista, insomma, mi raccontava di tante cose di questa valle. E il tunnel comunque era, io lo vedevo come si può dire, inscindibile dalla montagna, con l'idea di una bambina, no? E vedevo questa montagna con questo passaggio che portava da qualche altra parte e mi affascinava moltissimo, quindi è sempre stato un po' nel retro dei miei pensieri raccontare quella storia. E poi quando mi sono documentata e l'ho vista più da vicino, mi sono resa conto che era veramente una bella storia da raccontare. Ecco, sicuramente si vede che tu ti sei documentata molto per scrivere questo romanzo, anche perché ci sono alcune parti più tecniche del romanzo che parlano proprio del progetto e della costruzione, anche dei problemi che si ebbero all'epoca per la presenza d'acqua sul fronte italiano e alcuni cedimenti strutturali. In questo contesto reale storico tu hai creato il personaggio di Ettore. Ettore, fin dalle prime pagine, insomma, appare subito come un uomo apparentemente sereno, tranquillo. Poi lentamente si scopre che anche lui si porta dietro i suoi dolori, per esempio il rapporto con il padre. Si scopre lentamente che lui ha fatto ingegneria proprio per trovare un linguaggio di comunicazione con il padre, lui che era legato più alla madre, il fratello invece più con il padre, e invece il padre muore che lui è giovanissimo. Che peso ha la morte di suo padre nella vita? Ha un peso enorme perché, come hai detto giustamente tu, per lui studiare ingegneria e essere sul fronte di questi scavi, entrare in questo buio di queste gallerie, voleva dire cercare di avere un linguaggio comune con questo padre che invece gli era così pur vicino, così distante. La morte di questo padre così prematura però fa morire in partenza questo sogno che lui aveva, e lui si ritrova tra le mani questo mestiere. E che cosa ne fa? Tante volte nella vita, io insomma voglio dire, si hanno delle immagini, dei sogni, dei progetti che magari non vanno esattamente come ce li siamo immaginati, e quindi io ho messo questo mio vissuto anche in Ettore e ho pensato cosa poteva fare un uomo che si ritrova tra le mani un mestiere che però forse non ha più il senso di partenza. Eppure per me Ettore ha voluto comunque sposare questo mestiere, e è stato anche lui un po' che mi ha guidato verso questa idea, il fatto che comunque quello fosse un qualcosa da cui poteva nascere qualcosa di bello, qualcosa di buono, qualcosa di grande. E allora l'ho messo lì su quello scenario, su quel cantiere, dove è veramente nato qualcosa di grande, perché quella era veramente un'opera immaginifica, voglio dire, più prima ancora che di ingegneria, quasi visionaria, quasi di visione, ecco. E quindi diciamo che sì, questa morte gli ha lasciato, come si può dire, il vuoto di tutte le morti, con l'idea in più di non poter più avere quel linguaggio comune. Però gli ha regalato un mestiere che poi l'ha portato sul progetto più grande per l'epoca, ecco. Infatti tu a un certo punto scrivi: le gallerie erano il mio pane, le avevo studiate, progettate, ma quelli a cui avevo partecipato erano semplici scavi stradali o ferroviari, mentre questo era epico, quasi blasfemo. Eravamo lì per profanare la montagna più alta. Ecco, per l'epoca, dicevamo, questa era un'opera anche considerata visionaria, le prime idee, i primi progetti, come riporti anche tu nel romanzo, risalgono al primissimo dopoguerra, al 46. Come venne vissuta anche dall'opinione pubblica la realizzazione di quest'opera? Era un po' considerata anche una sorta di gara fra Francia e Italia, chi arrivava prima al famoso diaframma che poi sarebbe stato abbattuto? Allora, all'inizio non ci credeva nessuno, proprio perché i primi progetti erano ancora antecedenti alla guerra, era tantissimo tempo che se ne parlava, quindi capirai bene che l'opinione pubblica, soprattutto i valdostani, erano un po' assuefatti all'idea che quello era, come si può dire, era propaganda, era qualcosa di cui ci si riempiva la bocca ma che non sarebbe mai poi diventato realtà. E invece quando poi, prima da parte francese e poi da parte italiana, viene ratificato tutto, e quindi anche da Roma, anche dal governo, arriva l'ok e si inizia a scavare, diventa, come hai detto tu giustamente, quasi una gara, perché ci sono due fronti, ci sono due traiettorie di scavo che si devono incontrare nel ventre della montagna, si devono incontrare in quel buio laggiù, e però da una parte e dall'altra ci sono due popoli, due idee e due volontà che scavano l'una verso l'altra, quasi l'una contro l'altra in qualche momento. C'è anche una parte storica interessante che ho trovato divertente quasi alla fine della lavorazione, siamo all'inizio del 62 e i francesi sono in anticipo rispetto alla squadra italiana, proprio per i problemi anche di venute d'acqua, di qualità della roccia che hanno affrontato gli italiani, e i francesi danno, diciamo, per scontato che arriveranno per primi, e quindi vogliono far firmare agli italiani una specie di patto di resa, quasi veramente è un richiamo. In ogni caso ricordiamoci che la seconda guerra mondiale era dietro l'angolo, era passato veramente poco tempo. E quindi gli italiani non accettano questa resa incondizionata e infatti saranno i primi ad arrivare al traguardo dei 5.800 metri con uno scatto d'orgoglio. In questo contesto storico, dunque, della costruzione del tunnel del Monte Bianco, dicevamo, si muove Ettore, si muove proprio dal punto di vista umano. Abbiamo già visto il rapporto col padre, il rapporto interrotto col fratello, che poi in qualche modo verrà recuperato, ma naturalmente bisogna leggere il romanzo per capire in che modo. E poi c'è anche una storia d'amore, perché all'interno di questo contesto molto maschile, perché tutte le persone che lavorano al fronte di scavo, appunto al tunnel, sono uomini, c'è Nina, questa giovane donna che arriva da Milano, ha un figlio piccolo, Arturo. Lei è lì per strane ragioni, che poi si comprendono dopo, per fare la cameriera. E insomma, fra lei e Ettore scoppia l'amore, questo lo possiamo dire. Questo possiamo dire, sì. Nell'ultima pagina dei ringraziamenti io appunto ho anche precisato che quando mi sono documentata e ho incontrato anche persone che a questo tunnel hanno lavorato, questi mi hanno diciamo sconsigliato di inserire un personaggio femminile, eppure io l'ho voluto inserire perché cercando di essere ovviamente storiograficamente più corretta possibile, ho comunque dovuto forzare in qualche modo la narrazione su alcuni personaggi che non sono realmente esistiti. In questo caso Nina è un personaggio che aiuta molto, secondo me, la narrazione ad andare avanti in alcuni punti che se no diventavano veramente troppo tecnici, troppo maschili, anche troppo freddi. E il suo essere lì, il suo far vedere a Ettore che lei affronta la vita in maniera diversa, perché alla fine Ettore, se vogliamo andare al cuore della faccenda, allo scavo, ecco, lui si lascia dietro di sé, come in uno scavo, le macerie che sono nel suo passato. Lui va avanti, va avanti, va avanti, ha una tenacia e una volontà incrollabili, però non si guarda indietro. E invece Nina è una donna, ha un atteggiamento diverso ed è una donna molto coraggiosa che però, pur allontanandosi da questo suo passato, lo affronta sempre, è come se lo macinasse, lo guardasse ogni giorno per trarne un insegnamento. E quindi questa sua presenza aiuta Ettore a fare quello che avrebbe dovuto fare fin dall'inizio, quindi andare avanti a scavare, ma anche voltarsi indietro, perché tutto quello che ha lasciato nel suo ieri, tra cui suo padre e suo fratello, una volta risolto, lo aiuteranno ad andare ancora più veloce in questa galleria che poi è la sua vita. Ecco, poi dobbiamo anche dire che per Ettore ha grande importanza il rapporto con la montagna. Lui arriva lì da cittadino, eppure lentamente, soprattutto grazie alla presenza di Hervé, il capocantiere che inizialmente lo porta a fare queste passeggiate in montagna, dicevamo, riacquista un nuovo equilibrio, un nuovo punto di vista sulla vita, entra proprio in armonia con la montagna e anche con elementi che magari potrebbero sembrare un po' insoliti e sovrannaturali ad una mente così razionale. Mi riferisco all'incontro con Samuel, che è considerato una sorta di stregone, che poi lo aiuta sia fisicamente che psicologicamente a superare una serie di difficoltà. Insomma, esistono veramente questi stregoni? Allora, diciamo sì e diciamo no, nel senso che la figura di Samuel è ispirata alla figura dei rebailleurs, che sono i guaritori valdostani. Questi esistono, io ne ho conosciuto uno che mi ha diciamo rimesso in piedi dopo una caduta da un albero che avevo fatto da ragazzina e mi ha sistemato. Questo sì, esistono, sono presenti in molte culture, anche popolari, questi personaggi che sono un po' degli osteopati ante litteram, nel senso che curano il corpo, sistemando, senza, diciamo, con una saggezza nelle mani, proprio nei gesti, sistemando i nervi, le giunture, i muscoli, ecco, tutto ciò che, dove si ferma il medico, ecco. La questione di Samuel, diciamo, io l'ho arricchito con alcune esperienze che ho fatto nella mia vita di persone che sicuramente hanno qualcosa in più di questo tocco, come si può dire, una spinta verso un'altra realtà, verso un sovrannaturale, verso un magico che comunque nella natura è presente. E l'incontro di questo personaggio particolare, ispirato, ecco, con Ettore, che invece, appunto, come l'hai spiegato tu molto bene, l'ingegnere che arriva pieno di certezze verso questo cantiere che gli darà l'occasione della vita, no? Viene chiamato, quindi. Però lui trova qualcos'altro in quell'ambiente, perché lui non va semplicemente in un posto di lavoro. Lui va in un ambiente che è lì da millenni, che è millenario, che è il bianco, per il suo punto di vista è un'occasione lavorativa, ma è tante altre cose ed è molto miope pensarlo solo dal proprio punto di vista. Ecco, io credo che la montagna in questo aiuti, Ettore, ad alzare lo sguardo, a dire esisto io, ma esiste anche tutto un mondo. Io scavo, ma qualcosa viene scavato. E quindi questa natura, questa montagna, che lo è stato anche per me, te lo dico, è stato anche per me questo, la montagna, un modo di entrare dentro, un modo di respirare meglio, di trovare il proprio centro, non so, una meditazione in movimento, un qualcosa del genere. E lo è anche per Ettore. E forse non è un caso che la foto che hai su Skype, perché lo diciamo, stiamo realizzando questa intervista con Skype, si vede il tuo volto e sullo sfondo c'è la montagna, quindi tutto torna alla fine. Grazie, grazie a Sara Loffredi, ora in libreria con Fronte di Scavo, pubblicato da Einaudi. E prima di chiudere vi segnalo due libricini con riflessioni sul periodo strano e difficile che stiamo vivendo. Il primo è Nel contagio di Paolo Giordano, pubblicato da Einaudi. Una sessantina di pagine con riflessioni scientifiche, Giordano lo ricordiamo è un fisico, ed esistenziali. Che cosa il Covid-19 può cambiare nel nostro modo di pensare? È in vendita in edicola ed è il 5 maggio in libreria. I diritti d'autore saranno devoluti per creare due borse di studio presso la SISSA, Scuola Internazionale Superiore Studi Avanzati di Trieste. È stato tradotto in più di 30 paesi. Ed è in edicola per un mese, insieme al Sole 24 Ore, I giorni dell'emergenza, diario di un tempo sospeso di Giuseppe Lupo, scrittore candidato al Premio Strega 2020. Pensieri, ricordi, riflessioni su questo periodo con riferimenti letterari. E anche per oggi è tutto, vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it. Se volete potete seguirci sui social, siamo presenti su Facebook, alla pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri - Radio 24, ma anche su Instagram come Cacciatore di Libri senza l'articolo Il. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.